dirti sempre di sì. Sei stata, lo sei sempre, lo sarai. La donna che ho voluto e che vorrei. Succederà che torno a letto e tu ti addormenti senza me. Succederà più, l'amore ci sei. Farti contento e penso non succederà più, d'amore te ne ho dato tanto, ma non succederà più che torni alle tre e io mi addormento senza te, eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore, ma non succederà più che dico di sì per farti contento. Gloria, anche tu nell'aria. passioni, con gli Oscar Mondadori di qualche anno fa. Luce del varietà, mangi un panino nell'attesa del provino. Vivi, guardi film estivi all'ultimo spettacolo, gli altri vanno via e ti batte la fantasia dalla stazione senza treni del tuo cuore. Noi amici da sempre, perché siamo geni, a volte troviamo le occasioni per fare i tranquilli, per stare celebrini, parlando di storie e di illusioni che abbiamo vissuto, che abbiamo sbagliato per via della nostra ingenuità. Perché siamo questi, perché siamo tristi e pochi siamo rimasti. Sopra le tue ali, vai così, vai così, è una

c'è l'amore a cena e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma. Tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu, quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non verrà, che lo sai, mi starà vicino. Tu sei più bella che mai, baci da un minuto. Tu non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare? Tu che mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più ed un po' di follia, quanto basta perché tu come lei non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone. Canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste. D'amore tu hai bisogno di me, che ti ossigeno di più. Dimmi che non sei tu un miraggio, ma sei tu.